rossa di onda rossa. Sono le 23:02 minuti, proprio in questo istante riapro ufficialmente il microfono qui di Onda Rossa, sta per cominciare una nuova trasmissione targata Altroverso. Chi vi sta parlando è DJ Misk, sempre in compagnia di Mischietta nel sabato notte di Onda Rossa, radio libera di Roma e provincia nell'etere dal 1977. Il sabato notte ormai da più di 12 anni a questa parte va in onda la musica che trasmette Altroverso, che è principalmente elettronica, e quindi andremo avanti fino alle 6 della mattina in questo modo. Questa è esattamente la puntata numero 679 per questo sabato 17 settembre 2011, rigorosamente in diretta. Vi ricordo 0649 1750, il telefono della radio, Altroverso @ondarossa.info, la nostra mail, altroverso.net, il sito ufficiale di questa trasmissione, poi naturalmente il sito ufficiale della radio, che è www.ondarossa.info. Siamo pronti, velocissimi, per partire oggi, sabato 17 settembre, Altroverso numero 679. Inizia così, subito. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altroverso. Dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altroverso, il meglio della musica elettronica. Si chiama Bronco del Noce su Lucid Flow Records, la prima release di questa settimana è targata e firmata Ellie Larson e Richie Komoto, direttamente dalla label di Nadia Lind ed Helmut Ebrisch, questa novità in stile molto dub and deep. Questo è sempre Altroverso, altri suoni, altra musica elettronica nel sabato notte underground di Onda Rossa. Ascoltiamo adesso Andrea Di Rocco aka Smiley Guy con la sua Left Hand nella versione remix di Helmut Dapnitsky su IWW Music. È un Helmut Dubnitsky in versione molto tribal che remixa Left Hand di Andrea Di Rocco per la label IWW Music, ovvero IWW Music, produzione italiana che abbiamo ascoltato in questa prima ora di novità per Altro Verso, sempre qui su Onda Rossa. Adesso arriva Jens Zimmermann con D32 su etichetta Snork Enterprises. Stile molto rarefatto, sempre più ridotto all'osso nel classico stile minimal, Jens Zimmermann approda su Snork Enterprises con questa D32, ovvero D32. E questa era anche la terza novità che abbiamo ascoltato in questa prima parte di Altro Verso, che vi ricordo insomma andrà in onda fino alle 6 della mattina, dalle ore 23 alle 24 ascoltiamo le novità del panorama underground internazionale, poi dalle 24 fino alle 5 di notte invece in selezione senza interruzioni tutte le tracce più nuove che girano all'interno di Altro Verso. Poi dalle 5 alle 6 della mattina invece la zona chill out per rilassarsi dopo insomma la notte di musica elettronica, ci vuole la musica chill out e ambient, così che va così appunto a concludere questa trasmissione che vi ricordo è la numero 679 per questo 17 settembre. Maggiori informazioni riguardo alla playlist vi rimando al nostro sito altroverso.net, da cui potete anche ascoltare la trasmissione in podcast, riascoltarla e ascoltare anche in diretta lo streaming live 24 ore su 24, attraverso.net, così nel nostro sito internet. Prossima release firmata Collective Tumstrasse, si chiama Unice ed è remixata dagli Of Norway, etichetta Connesse Records. Out of control. control and listen carefully. Listen of sound, listen carefully. Don't turn around carefully. Shine your light, turn it right. Shine your light tonight, tonight, tonight, tonight. Così, se nel precedente brano abbiamo ascoltato suoni essenziali in questa traccia, invece troviamo belle linee di synth, belle dilatate, belle insomma così espanse che appunto risuonano alla grande in questa Nights, traccia dei Collective Turmstrasse remixata dagli Of Norway, che esce sulla label Connessa Records. Ore 23:17, sempre in diretta qui su Onda Rossa, sempre con DJ Mischia Mischietta all'ascolto di Altro Verso. Vi ricordo il nostro telefono 0649 1750. Andiamo sempre avanti con la musica, da queste parti suona sempre ad altissimo volume, mi raccomando, suoni, anzi bassi ben enfatizzati, perché questo è il modo giusto così per ascoltare Altro Verso. Adesso arriva Frank Valat con El Camino su Sound Selective. Classe veramente questo Frank Vallat, ancora una volta tira fuori dal suo studio di produzione una traccia di quelle con la maiuscola, si chiama El Camino, uscirà prossimamente su Sound Selective, sempre label indipendente, una insomma delle nuove label che si sta muovendo anche molto bene all'interno del panorama europeo underground della musica elettronica. Adesso ascoltiamo Bassy Piper con la sua Heart of the Sun, ovvero il cuore del sole, che uscirà su Plastic City. Thank you. Questo è Busty Piper su etichetta Plastic City. Si chiama Art of the Sun. La prossima è Moomin con Sweet Sweet, remixata da Oscar Offerman su Smallville. Così con Oscar Offerman e la sua Sweet Sweet Remix su Smallville Records si chiude questa prima mezz'ora di Altroverso, sempre in diretta. Vi ricordo, ci trovate sempre sul sito altroverso.net. adesso ci andiamo a fermare esattamente 2 minuti e 40, diamo spazio a un paio di spottini e poi riprenderemo con la seconda parte di Altroverso. Mi raccomando, non mollate, rimanete sempre qui su Onda Rossa. Take too much. If you laugh at a poor man, and I can be poor in anything. Resistance is Resistance, due giorni a fianco della lotta in Palestina. Venerdì 30 settembre, Facoltà di Lettere Roma 3, via Ostiense 234, a partire dalle ore 14, incontro e dibattito sulla campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro il progetto coloniale di Israele. Partecipano da Roma, Stop a Grexto, Free Palestine Roma, da Londra, People's Army, Low Key and Logic e Shadia Mansour. A seguire, proiezione anteprima del documentario Hip Hop is Bigger than the Occupation. Il documentario racconta del viaggio di diversi MC per 10 giorni nella West Bank occupata. Nei campi profughi di Balata, vicino a Nablus, scoprono che vuol dire vivere sotto occupazione militare israeliana. Existence is Resistance, due giorni a fianco della lotta in Palestina. Info su fortepalestino.net, existenceisresistance.org, freepalestine.noblogs.org. L'entropia cresce continuamente. Lo sapevate? È la seconda legge della termodinamica. Lo sapevate? Entropia massima è una trasmissione storica di Radio Onda Rossa e anche quest'anno non vi lascerà tranquilli. Lo sapevate? La nuova stagione 2010-2011 analizza gli aspetti scientifici, tecnologici e di auto-organizzazione di lotte e mobilitazioni nel Lazio a difesa dell'ambiente e della salute. Battaglia per l'acqua pubblica. Teoria e pratica dell'economia della decrescita. Informatica e tecnocontrollo. Tutti i lunedì dalle 20.15 alle 21 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. E dove se no? Prima che il capitalismo termini l'umanità e la biosfera, terminiamolo! Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano Altro Verso, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro. Devi sentire Roma, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere. Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo. La notte comincia con Attraverso. Porto dalla notte, musica elettronica sin interruzione. Siamo rientrati in rotazione dopo la piccola pausa degli spottini. Siamo rientrati ascoltando INC, il nuovo duo che incide su Musik Wind Freund. Questo Videt, mixato dai Collective Turmstrasse. Siete sempre all'ascolto di Altro Verso. Andremo avanti fino alle ore 24 con altre tracce novità. Poi dalle 24 alle 5 la selezione in automatico. E poi dalle 5 alle 6 naturalmente la zona chill out, solo musica ambient e chill out. Vi ricordo, maggiori informazioni riguardo la playlist le trovate sul nostro sito www.altroverso.net. Andando avanti con l'ascolto della nuova musica, delle nuove tracce selezionate da Altro Verso, ascoltiamo adesso Florian Kruse con Kindness House nella versione remix dei Der Q. Candles House per Der Q, la traccia originale di Florian Kruse, versione molto deep, molto anche come dire, molto festosa per appunto questo duo di Colonia. Sempre parliamo di Germania, sempre naturalmente musica elettronica che per la maggior parte insomma proviene proprio da quel paese. Adesso arrivano da Pike and Midnight con Emergency su etichetta Atmospheric Production. Vi ricordo sempre, siete all'ascolto di Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica, sempre qui su Onda Rossa, sempre in diretta. We'll be right back. In collaborazione con Midnight sfornano questa Emergency su Mosfery Production, bella produzione, veramente bel lavoro dietro a questo duo che per l'occasione ha fatto uscire questo nuovo lavoro appunto sulla label Mosfery Production. Adesso ascoltiamo dalla Minus Records Jake & Amber, un altro duo che gira qui dalle nostre parti, e ascoltiamo la loro This Is Mine. This Is Mine. Sono Jake and Amber su Minus Records. Siete sempre all'ascolto di Altro Verso, sempre qui al microfono DJ Misk, sempre insieme a Mischietta in questo sabato di Onda Rossa che si tinge di musica elettronica. Arriva Siopis con Lost Battleships nella versione dub ad opera di Cotti Prozac. La label è la Get Physical. L'ultimo disco per la Get Physical Records, la label di Mandy, sono anzi è Siopis con Lost Battleships, da cui abbiamo estratto questa Cotti Prozac dub. La prossima invece è Doomwork con Gastic, si chiama il nome della traccia. Questa è la These Days Mix by Argy su etichetta Retouch. We'll be right back. veramente sparata questa remix di Argy con Gastic per Doom Work su Vitace Records. Abbiamo così aumentato anche il, diciamo così, l'atmosfera, il ritmo. Stiamo per andare quasi verso la chiusura di questa prima ora di Altroverso, prima ora come sempre dedicata alle selezioni novità. Questa è la prossima e anche l'ultima per questo sabato 17 settembre. Si tratta di Kreos and Lemos con Dirty, su etichetta We Are Records, estratto da Club Tracks Volume 8. Sempre con Altroverso, sempre solo musica elettronica. Eddie Knowles, a drummer for the Denny Zulu Dance Group, a drummer for the Simpler Dancers, and a percussionist for a group called Black and Blues. The brother to my immediate left is Charlie Saunders of the Simpler Dance Group and a former drummer for Loretta Parker. David Barnes, a singer for Black and Blues, will be heard later on here. We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised. E così con Kreon and Lemos, la loro Dirty, chiudiamo questa prima ora di Altroverso, prima ora di novità. Vi ricordo questa traccia proviene dalla We Are Records, parlo di Svezia, quindi Agaric e cose simili, insomma robetta seria, roba autoprodotta ma sempre di classe. Sono le ore 23.59, ancora pochi minuti in diretta con il sottoscritto qui direttamente da Onda Rossa. Tra pochissimo avremo spazio alla rotazione in automatico fino alle 6 della mattina. Naturalmente dalle 24 alle 5 l'ascolto delle migliori tracce, dei migliori brani di queste ultime settimane che girano dalle nostre parti. Poi dalle ore 5 alle 6 della mattina invece spazio alla zona chill out, zona per rilassarsi. Vi ricordo che la playlist completa, le recensioni e tutte le varie informazioni riguardo a questa trasmissione le trovate sul nostro sito ufficiale, che è www.altroverso.net. Lì trovate anche il podcast per riascoltare la trasmissione di questo sabato se vi siete persi qualcosa, oppure se volete riascoltarla potete farlo tranquillamente dal PC di casa vostra. Adesso vi annuncio il disco della settimana. Firmato Solomon and Steaming, si chiama Challenge Everyday EP per la Dynamic Music, lo ascolteremo ogni ora all'interno di Altro Verso. Per quanto riguarda questa puntata numero 680 è veramente tutto per questo sabato, così noi ci salutiamo e ci risentiamo sabato 24 settembre. Mi raccomando, rimanete sempre qui collegati perché Altro Verso non si ferma mai. Potete legarmi.